Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. E benvenuti due di denari come Azza e la Rosciani. E voi che siete? Meglio del TG. Dicete un po' che ci avete da di. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. C'è qualche cosa che non va in me. Che succede? Vi separate o... No. Ho il morbo di Alzheimer. Esordio precoce. Mio Dio. Posso vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle. E non so più chi sono e cosa perderò ancora. Odio quello che mi sta succedendo. Non puoi usare la tua situazione per costringermi a fare quello che vuoi. Non sono tenuta a essere giusta. Sono tua madre. E allora abbiamo voluto iniziare con un brano tratto da questo film molto bello, interpretato da Julianne Moore. Still Alice parla della storia di questa donna di 50 anni che viene precocemente colpita da un Alzheimer molto veloce e galoppante, che chiaramente compromette la sua vita di insegnante, la sua vita di madre e quant'altro. Tutto questo per far partire la nostra trasmissione con una notizia molto importante che vogliamo dare oggi, Mauro. Esatto, Deborah, una notizia. Benvenuta a Due di Denari. Nel benvenuto anche a te, ciao. Una notizia importante che trovate sul Sole 24 Ore di oggi, che riguarda appunto le spese che le famiglie devono sostenere per i loro cari che sono affetti appunto da demenza senile. Perché? Che cosa è successo? Che il Tribunale di Foggia, in una sentenza che è stata diffusa proprio nella giornata mondiale dei malati di Alzheimer il 21 settembre scorso, cioè l'altro ieri, ha dichiarato che le spese sostenute dai familiari sono completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza esclusione di quelle assistenziali. La vicenda, volendola riassumere, poi naturalmente vi rimandiamo al Sole 24 Ore e anche al sito del Sole 24 Ore, www.solevventiquattrore.com, per il dettaglio che viene raccontato puntualmente da Anna Rita D'Ambrosio. Ma volendola proprio riassumere, la sostanza è che non si riesce a distinguere, per chi soffre di questa malattia, tra le spese sanitarie di tipo puramente sanitario e quelle per l'assistenza. Quindi c'è una Cassazione che già ha stabilito che a questo punto, non potendo una distinzione, deve esserci l'intervento complessivo a carico dello Stato. Al Tribunale di Foggia si era rivolto il figlio di un anziano che, dopo aver pagato per anni la retta, aveva consultato un'associazione dei consumatori, Consumer, che è molto spesso ospite di Due di Denari, e aveva deciso di sospendere il pagamento. La RSA, presso la quale era ospite il suo papà, gli aveva inviato un decreto ingiuntivo con la richiesta di oltre 5.000 euro, contro il quale appunto il figlio di questa persona malata, seguito dalla l'avvocato Giovanni Franchi, che ha ottenuto questo risultato, aveva chiesto revoca al tribunale e quindi ha avuto ragione. Questa retta, che sostanzialmente viene generalmente appunto divisa in due, tra spese sanitarie che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e spese assistenziali che sono a carico dei familiari, nella sostanza il tribunale ha detto è una unica e di tutto si deve fare carico lo Stato. E chissà che conseguenze avrà questa pronuncia, Mauro. Sarà interessante monitorare effettivamente la ricaduta. Quanto sarà estesa, infatti, e quanto, diciamo, aprirà la strada a una completa soddisfazione dei familiari che si trovano ad affrontare queste situazioni. E queste spese che sono enormi, mensilmente parlando, e quindi anno dopo anno. Allora, oggi però è mercoledì, cara Deborah, sì, sì. Almeno così mi risulta. Ti risulta bene. E quindi noi parliamo di lavoro, perché è proprio anche il titolo del nostro spazio, parliamo di lavoro. Ma oggi c'è una novità particolare, perché da oggi e per un po' di volte parleremo di lavoro con INAPP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, quindi un istituto che fa ricerche, svolge ricerche e presenta risultati proprio sulle dinamiche del lavoro in Italia, e non solo le dinamiche del lavoro, ma soprattutto quelle del lavoro e dell'occupazione. Quindi abbiamo l'opportunità di dialogare con loro, di approfondire le ricerche che loro presentano anche in anteprima, dando qualche anticipazione. Cominciamo da oggi. Naturalmente, se volete parlare di lavoro con noi, i numeri di riferimento sono quelli abituali: 800 24 0024, se volete usare il numero verde 349 238 6666, se volete mandarci un SMS oppure un messaggio via WhatsApp. Con la benedizione di Alessandro Marco Tulli, quest'oggi eccezionalmente badante, assistente per due di denari, in edizione straordinaria, dopo questa trasmissione non potrà fare a meno di continuare a seguirci, già lo so. E Gianmarco Ferronato che ci sorveglia agilmente e abilmente dalla regia, con la loro benedizione, dicevo, do l'apertura per il giornale radio del risparmio. Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Questo eccesso di romanità, di accento romano, sarà stato voluto da Alessandro Marco Tulli? Allora, secondo me. Sembra abbiamo un po' tutto casuale, ma a questo punto mi sta venendo qualche sospetto, oggettivamente. Abbiamo cominciato con una presigla in romanesco, continuiamo con una presigla in romanesco. Esatto. E proprio ieri a Roma è stato consegnato anche il Welfare Index, è stato assegnato questo riconoscimento che viene appunto attribuito da qualche anno a questa parte dal gruppo Generali a tutte quelle imprese che si distinguono in Italia per portare avanti politiche di welfare per i propri dipendenti particolarmente innovative. Quest'anno il test è stato chiaramente un po' sul Covid, come è stata affrontata dalle aziende italiane questa emergenza sanitaria. Ieri peraltro la cerimonia di consegna finale si è svolta con la presenza del Presidente del Consiglio Conte. Allora, sono 78 le imprese Welfare Champion 2020 e sono, pensa Mauro, più che triplicate rispetto all'edizione precedente, anzi rispetto a quando è nato il premio nel 2017, che hanno ottenuto le 5V del rating Welfare Index PMI. Sono storie straordinarie di imprese che hanno messo salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e hanno accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita-lavoro. Che cosa hanno fatto queste aziende in questi ultimi mesi? Si sono molto spese naturalmente per garantire la massima assistenza sanitaria anche ai propri dipendenti, dai tamponi ai test sierologici, alle iniziative aperte a tutto il territorio di sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti anche progetti di formazione a distanza, integrazione al 100% del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e nuove modalità di lavoro. E quindi imprese che hanno dimostrato, recita un comunicato che ci è stato proprio rilasciato dalla compagnia di assicurazione, una grande capacità di reazione e resilienza rispetto all'impatto della crisi Covid. Questo rapporto tra l'altro ha segnalato come proprio la crisi abbia impresso un salto di qualità, perché le imprese che si sono attivate hanno superato il 50%, quasi l'80% ha confermato le iniziative di welfare in corso, e questo mi pare un'ottima notizia, perché sta a significare che appunto la vicinanza alle risorse umane che garantiscono la vita dell'impresa non è venuta meno proprio con la crisi Covid. Dal lavoro io però passerei un secondino guarda, ai lavori. Questa è fantastica, io veramente mi sono divertita leggendo questo pezzo di Michela Finizio, la nostra collega del Sole. Allora, parliamo del super bonus 110%, nel senso non ne parliamo nella puntata, la puntata sarà dedicata al lavoro, però sul super bonus 110% vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in pubblicità, annunci, promozioni che vi dicono: pensiamo noi a tutto, prenota il tuo impianto gratis, scopri cosa puoi realizzare gratis, insomma ti facciamo un preventivo gratis e ti richiameremo presto, perché il nodo è proprio qua, ti richiameremo presto. È un mondo gratuito, però che cosa succede? Che qualcuno, cioè Michela Finizio, ha fatto la cronista, giustamente è andata a verificare, ha visto che la parola gratis effettivamente è la più utilizzata su Facebook. Molti annunci sponsorizzati chiedono poi di compilare un modulo per essere ricontattati, si lascia email, numero di telefono. In realtà poi le aziende che concretamente richiamano sono veramente poche, così è quello che è successo. Se poi capita di essere ricontattati, ecco, allora lì attenzione, perché gratis è una parola meravigliosa, ma poi non è detto che si traduca nell'effettivo rapporto, certo, tra la persona che ha chiamato e l'impresa che la contatta. Ma poi in realtà Michele racconta anche che ci sono altre incomprensioni fra magari la persona che va sul sito, compila tutti i format e chiede un preventivo di spesa. Le aziende, può capitare che non richiamino mai, E quindi lei dice: ma insomma, che cosa mi fate anche perdere tempo se poi non vi interessa farmi un preventivo per fare dei lavori in casa? Oppure ti prendono tutti i tuoi dati e poi ti dicono solo in un secondo momento che non sono in grado di fare tutti i lavori, ma ne fanno solo una parte. E qualcuno addirittura dice: tu portami l'impresa che ti fa tutta la ristrutturazione, io ti faccio questa parte per la quale sono specializzata. Insomma, non mi sembra proprio un'attività di marketing molto efficace. Bisogna essere un po' più chiari e corretti con il consumatore finale, direi. Diciamo che ci sono molti margini di miglioramento per una comunicazione un pochino più trasparente e corretta. Abbiamo una terza notizia che chiude il nostro giornale radio del risparmio, ma questa volta è una notizia che prevede anche l'intervento di un ospite naturalmente di valore mondiale, come sempre. Deborah, vuoi introdurre tu notizia e ospite? Molto volentieri. Allora, intanto anticipiamo ai nostri ascoltatori che proprio domani viene presentato a Roma al CNEL un libro, un lavoro molto interessante, molto corposo, molto articolato e dettagliato, La popolazione anziana e il lavoro, un futuro da costruire. Perché edito... mi guardi quando dici popolazione anziana? No, per anziana, la verità stavo leggendo il testo del comunicato che ho, per cui non essere così malizioso, perché non è vero, anche perché tu sei ancora ben lontano da raggiungere questa soglia anagrafica, per fortuna. Insomma, devi stare lì seduto al tuo posto ancora per un sacco di tempo con me. Questo è un volume di quasi 400 pagine realizzato grazie alla collaborazione fra 50 e più associazione e Fondazione Leonardo. Allora, l'associazione 50 e più è un'associazione referente a Confcommercio che conta più di 330.000 iscritti over 50 in tutta Italia, professionisti che appartenevano appunto al mondo del commercio e che adesso hanno deciso appunto di arricchire questa realtà. Tutto questo preambolo per invitare e salutare il nostro ospite di oggi, che ci racconta qual è il contenuto di questo volume, professor Marco Trabucchi, presidente della Fondazione Leonardo, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno professore, eccoci a noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, voi... Sì. Sì, mi dica. No, provavo solamente ad anticipare ai nostri ascoltatori fondamentalmente qual è lo spirito di questo lavoro, che è molto articolato. È anche un po' quello di abbattere questo pregiudizio nel quale ci muoviamo da tanto tempo, e cioè che se le persone vanno in pensione sempre più tardi, non consentono alle giovani generazioni di entrare nel mercato del lavoro. E questo è un po' un assunto che voi cercate, se possibile, di smontare. Ma non c'è solamente questo, professore. No, questa è certamente una premessa importante, perché ha un rilievo sociale. Ormai tutta una serie di studi fatti in vari paesi hanno dimostrato che non c'è la sostituzione automatica, cioè se io mando in pensione 100 persone più tardi, non è che porto via il lavoro a 99 giovani. Questo è un punto fondamentale, che è una premessa, ma la sostanza del libro, oltre a questa premessa, ci dice che il lavoro dell'anziano è un atto vitale per lui, cioè per la persona che continua a lavorare, è un atto vitale per la collettività, per l'ambiente dove questi vive. E allora, perché un atto vitale per l'anziano? Perché muovere le gambe, muovere il cervello richiede progettualità, richiede impegno, richiede voglia di costruire qualche cosa per sé e per gli altri, e questo è il lavoro. E quindi di fatto poi le conseguenze positive per l'anziano sono che rallenta la perdita di funzioni cognitive, e quindi in qualche modo rallenta la comparsa di demenza qualora ci fosse questo rischio, conserva una funzione cardiovascolare migliore e non ha più la decadenza muscolare che avrebbe se stesse a casa. Ecco, quindi questo aspetto è un aspetto fondamentale. Qui si inserisce anche il problema dell'home work, per cui in questa nostra prospettiva il lavoro dell'anziano, per essere vitale davvero, non deve essere un lavoro fatto davanti al computer fermo a casa, deve essere qualcosa di molto di più, cioè un lavoro costruito anche sulle relazioni. Cioè anche dinamico, non solo dal punto di vista fisico, ma dinamico anche perché ci si vede con gli altri colleghi, con altre persone, bravo. Insomma, questo è il senso. Si vede, si intrattengono relazioni, si va al bar, questa discussione che c'è in questi giorni sui bar che perdono clienti. Perdono clienti i bar, e questo a me personalmente può interessare poco, ma mi interessa molto come studioso di processi di invecchiamento, perché il ritrovarsi al bar in momenti di pausa a mezzogiorno è un modo per allacciare relazioni, mantenerlo, consigli, discussioni, vitalità, vita, insomma, è questo il punto. Professore, secondo la Commissione europea, noi andiamo, ed non era difficile prevederlo, viene da dire, verso una crescita notevole dei lavoratori, diciamo così, anziani, cioè over 65, nel senso che siamo un over 65 su tre lavoratori, che è il rapporto attuale, andremo verso un over 65 ogni due lavoratori, quindi bisognerà anche ragionare sull'utilizzo migliore, più proficuo per tutti, per il lavoratore e per chi dà il lavoro, di questa popolazione che invecchia, cioè che non è diversamente giovane, mi viene da dire. Con un'attività di sensibilizzazione alle aziende, direi massiccia, professore. Sì, dai, prima cosa dobbiamo partire dal concetto che i 65 anni di oggi non sono vecchi, e questo va detto in maniera molto chiara, ma non perché ce lo inventiamo noi che lavoriamo in ambito geriatrico, ma perché la riduzione di processi di invecchiamento è stata di almeno 10 anni negli ultimi decenni, e quindi il vecchio di 75 anni di oggi è come il vecchio di 65 anni di 50 anni fa. Questa è la premessa fondamentale, per cui dobbiamo partire da dati oggettivi come sono questi. Ecco, poi giustamente, come avete suggerito voi, è chiaro che questa che sarà una rivoluzione terribile e drammatica, ma in positivo, avrà bisogno degli aggiustamenti, avrà bisogno di aziende che capiscono, avrà bisogno di adeguamenti di tipo pensionistico, avrà bisogno di adeguamenti sull'organizzazione della vita collettiva, però non organizzazione per dei poveri vecchi che vogliono lavorare perché se lo sono messi in testa loro. No, ma un'organizzazione che risponda a delle persone che sono avanti con l'età, che però hanno capacità intellettuali e fisiche simili a quelle di altri momenti della vita. Insomma, che si lavori su una staffetta generazionale seria e costruttiva. Professore Trabucchi, noi dobbiamo dare spazio al nostro secondo argomento, la dobbiamo lasciare, ma grazie, magari troveremo grazie. Il modo in un'altra circostanza appunto di ritornare su questi temi che ci piacciono molto. Grazie molte, buona giornata. Nella sostanza, caro Mauro, il professor Trabucchi ha detto che io sono una trentenne, perché le cinquantenni di oggi sono molto diverse da quelle del passato. Ma abbiamo appena festeggiato i tuoi 29 anni, ecco, cara Deborah. Esatto. Guarda, facciamo così, facciamo i seri. Parliamo di lavoro con INAPP. Parliamo di lavoro con INAPP. Inauguriamo questo spazio di Parliamo di Lavoro con INAPP e diamo il benvenuto al direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, Santo Darco Grillo. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno e benvenuti a voi, e estendo gli auguri alla Debora. Insomma, sono d'accordo con l'intervento precedente, le cinquantenni di oggi sono le forze le trentenni di allora, non esatto. Lo so. Comunque peccato sono... che l'ho già fatti già da un po', da oltre un anno, quindi non qua in realtà... importante. Sono sicuro che il meglio sta in lei. Comunque guardi, è proprio vero che non ce li sentiamo, veramente apparteniamo a generazioni che con sgomento guardano alla carta d'identità, ma lasciamo perdere questo tema, andiamo all'INAPP. Beh, le abbiamo dato però uno spunto, direttore, per qualche ricerca INAPP, perché questo appunto invecchiamento della popolazione al lavoro in qualche modo potrà essere, o forse lo è già stato, oggetto di uno dei tanti studi, delle tante ricerche di cui si occupa l'Istituto. Sì, guardi, questo come in tanti altri, e qui torniamo poi all'INAPP, uno dei fenomeni sociali che è oggetto di studio dell'Istituto stesso, ma agli uditori è forse giusto dire l'INAPP che cos'è, che cosa certo. Fa. L'INAPP intanto nel suo acronimo è un Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, è un ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e non dall'Università come gli altri enti, ma fa parte della squadra degli enti di ricerca che svolgono analisi, monitoraggi e valutazioni. In questo settore, nell'ambito specifico nostro, ci occupiamo di politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, politiche dell'istruzione e della formazione, politiche sociali, insomma tutte quelle politiche pubbliche che in qualche maniera hanno effetti sul mercato del lavoro. In questo periodo tanti sono gli argomenti attenzionati dall'istituto, che di fatto studia fenomeni, cioè la sua mission è quella di promuovere la comprensione di fenomeni economici e sociali attraverso la produzione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, attraverso la creazione e lo sviluppo di banche dati o l'organizzazione di seminari che consentono al policy maker di avere attraverso la nostra elaborazione di scenari di intervento un punto di vista oggettivo dettato alle ricognizioni che effettuiamo per poter prendere delle decisioni importanti. Quindi in pratica l'istituto, diciamo, analizza le tendenze in atto e le probabili evoluzioni nel mercato del lavoro, in tutti gli aspetti del mercato del lavoro, così da poter anche fornire dei dati, delle indicazioni, delle traiettorie che poi spetterà al Parlamento, al legislatore, alle regioni, politico, ai comuni, insomma, ai centri per l'impiego interpretare. Esattamente, fa questo tipo di valutazione sia in parte preventiva ex ante, quando si decide di attenzionare dei fenomeni per avere un po' un contesto generale. Si fa un monitoraggio in corso d'opera, si fa anche una valutazione ex post, in modo tale da capire quali sono stati gli effetti di questi interventi. L'INAPP agisce anche in qualità di organismo intermedio, dove per organismo intermedio spieghiamo questa cosa, perché sul vostro sito, infatti, questo viene detto: il sito è www.inapp.org. Organismo intermedio, diciamo, per dare una definizione, un qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione, e la nostra è l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e agisce per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. L'INAPP è organismo intermedio per l'attuazione del programma operativo nazionale, il PON, PAO, Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, del Fondo Sociale Europeo. E da questo punto di vista, ovviamente, per gestire quelle attività nell'ambito delle aree di intervento che le dicevo prima, ovviamente fenomeni economici e sociali e quant'altro. Cioè l'ambito operativo in cui si muove l'istituto si sostanzia in cinque grandi tematiche: il welfare, l'innovazione e l'investimento sociale, professione e competenze, dinamiche istituzioni politiche del mercato del lavoro, come le dicevo, istituzione e politica della formazione, povertà, disabilità, inclusione sociale, sono tutti quei fenomeni che in questo periodo, come dire, sono oggetto di grande attenzione da parte di tutti. Direttore, la fermo un istante perché dobbiamo dare l'aggiornamento dei mercati finanziari, come facciamo sempre alla mezz'ora, ma poi volevo qualche anticipazione su un evento che si terrà domani e sarà dedicato al pubblico, al lavoro pubblico. Ma prima di tutto questo, le borse. Vabbè, bravi, grazie. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Due di denari. Eccoci ritrovati in diretta, Mauro, a parlare, a raccontare ai nostri ascoltatori dell'attività dell'INAPP, con la quale oggi parte un nostro percorso di Due di Denari, e parleremo proprio da qui in avanti per molte settimane di lavoro con questa istituzione. Eravamo rimasti ad un'iniziativa che ci sarà domani. Sì, perché domani sarà presentato il nuovo numero della rivista scientifica di INAPP, si chiama Sinapsi, però con due P naturalmente, perché gioca sulla sigla dell'istituto. INAPP. E questo numero che sarà presentato domani con un evento online organizzato proprio da INAPP e dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione è dedicato al lavoro pubblico. Allora, Santo Darco Grillo, che è il direttore generale di INAPP, forse ci può anticipare qualche contenuto. Poi per tutti gli altri che volessero seguire l'evento possono mandare un'email a relazioni esterne@sna.gov.it. Direttore, cosa ci sarà in questo numero della rivista? Poche parole, ma domani ovviamente nel webinar, ovviamente l'oggetto della politica del lavoro pubblico, si presenta questo numero monografico della Sinapsi che lei aveva anticipato. Il tema è attuale, si affrontano le politiche del lavoro pubblico, ne argomenteranno il presidente dell'INAPP, il presidente della SNA Stefano Battini, poi il presidente Sabino Cassese, che è il presidente del nostro comitato editoriale, e altri autorevoli personaggi. Di che cosa si parla? Le politiche del lavoro pubblico ovviamente sono ormai segnate dal susseguirsi di continui tentativi di cambiamento. Da una parte ci sono molti arrangiamenti settoriali che, cercando di risolvere specifici problemi settoriali o di dare soddisfazione a micro interessi operativi, poi generano una progressiva stratificazione di una giungla normativa retributiva nella quale è difficile districarsi. Lei è stato molto garbato, ma pensiamo ai precari della scuola e abbiamo capito quello che vogliamo dire, mi pare, sì, no? Sì, prego. Sì, infatti sono fenomeni che in questo periodo più di altri probabilmente stanno come dando segni di cedimento, lo vediamo tutti i giorni, i nostri figli vanno a scuola, sanno quando escono, sanno quando entrano, non sanno quando escono, se dovesse succedere qualcosa in corso di lezione, insomma, abbiamo problemi strutturali, mancano i professori, insomma sono tutti problemi che quindi sono sotto gli occhi di tutti. Si è cercato di dare, di assistere a diversi e ambiziosi tentativi di riforma strutturale, ma come vediamo sono tutti tentativi che si fanno e che cercano di trovare in esito ai confronti con questi personaggi autorevoli che domani ci saranno, cercheranno di ipotizzare soluzioni o di analizzare ancora meglio il contesto per capire come possiamo tentare di risolvere. Insomma, ci sarà tanta roba su cui poter riflettere e i nostri colleghi che hanno partecipato alla redazione sicuramente daranno un punto di vista che ci farà riflettere in maniera seria su queste tematiche. Grazie. Senta, dottor Grillo, le voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla. Lei da quanto tempo non apre proprio fisicamente, materialmente, un atlante geografico? Oh, non lo ricordo più. Neanche. Però apre l'Atlante del lavoro di INAP. Guardi, l'Atlante del lavoro di INAP, io sono qui da sono insediato da aprile rispetto a una precedente esperienza che avevo come direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana. Sono rimasto veramente sorpreso e non poco, perché ho scoperto di avere una punta di diamante all'interno dell'istituto che ci consente di analizzare professioni, processi e qualificarle, dargli la massima dignità in maniera completa e strutturata. Io non lo conoscevo e quando l'ho avuto modo di approfondire questa chicchetta, come io in maniera simpatica la apostrofo, sono rimasto veramente colpito, anzi mi impegno, come dico, ai miei in modo tale da poter dare la più ampia divulgazione di questo strumento che sta diventando un punto di riferimento per tante amministrazioni. E allora, ringraziando il direttore Santo D'Arco Grillo per questa introduzione, noi andiamo alla seconda ospite che appunto proviene da INAP, è un ricercatore INAP e si occupa, ma guarda un po', cara Debora, proprio dell'Atlante del lavoro. Diamo il benvenuto a Riccardo Mazzarella. Dottor Riccardo Mazzarella, ricercatore responsabile del gruppo di ricerca Atlante del Lavoro. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Grazie, buongiorno anche a voi. Allora, l'Atlante del Lavoro, poi naturalmente se andate sul sito inap.org tutto diventa un po' più chiaro, ma cercando di riassumerlo a parole, insomma è come una grande mappa Atlante del Lavoro e delle qualificazioni che appunto va a individuare settore per settore, mansione per mansione, quali sono parcellizzandole le attività che devono essere svolte. E quindi ad esempio il nostro Gianmarco Ferronato, che è un po' regista, un po' tecnico del suono, un po' anche vigilante, un po' anche badante per il sottoscritto. Volevo dirlo io, ma non so se fosse una professione alla quale lui in questa fase, insomma, non ambisce, ama cimentarsi, non ma lo potrebbe so, metterla malgrado. Nel curriculum. Adesso sentiremo dal dottor Mazzarella, celiamo un po', dottore, ci perdoni, scherziamo un pochino, però per dire che l'Atlante appunto fa una mappatura molto completa, ecco, ma poi qual è lo scopo ultimo di questa mappatura dell'Atlante del Lavoro? Sì, no, innanzitutto volevo dire che sicuramente l'Atlante va nel dettaglio, ma senza mai perdere di vista l'insieme. Questo penso che sia uno dei punti di forza del nostro, quindi non parcellizza come potrebbe essere una lettura tayloristica del lavoro, ma invece cerca di mantenere sempre un rapporto tra il micro e il macro che è molto importante, ed è proprio il micro e il macro che ci fa vedere le trasversalità oggi delle professioni, no? Prima scherzavamo, però in realtà oggi sul mercato del lavoro noi abbiamo persone che esercitano professioni che apparentemente in una lettura tradizionale sono molto distanti tra di loro, ma poi viste dal punto di vista dei processi produttivi sono invece molto più prossime di quanto uno possa immaginare. L'Atlante, come è stato detto, descrive il lavoro, è come se avesse, consentitemi questa metafora, è come se avessimo abbiamo un problema con la linea. Sì, forse può avere così un po' suo... Adesso abbiamo poi chi è al lavoro proprio per rimediare a questa cosa. Non so se siamo già pronti per lanciare il traffico. Sì, mi stava giustamente adesso. Benissimo, allora facciamo così. Cambiamo, con un leggero anticipo diamo la linea alla viabilità, cioè il traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Due di denari. Eccoci ritrovati in diretta, ripristinata la telefonata col dottor Riccardo Mazzarella, ricercatore responsabile del gruppo di ricerca Atlante del lavoro di INAP. Ci stava spiegando effettivamente qual è l'attività di questo Atlante, qual è la funzionalità, l'operatività, l'obiettivo anche di questo strumento che l'INAP mette a disposizione dei suoi fruitori, questa mappa delle attività e delle specializzazioni. Una mappa, dicevamo, dottor Mazzarella, per andare dove? Allora, una mappa che può sicuramente che mette in contatto due mondi innanzitutto, perché la mappa poi associa tutti i titoli di studio che vengono rilasciati, tutte le qualificazioni, le competenze che vengono certificate in questo paese, che tra l'altro sono 12.000, anzi più di 12.000, e quindi crea un ponte, una possibilità di dialogo tra due mondi che hanno sempre faticato a parlarsi, no? Il mondo del lavoro e il mondo della formazione. E un ponte a due vie che consente sia al lavoro di raccontare quali sono le proprie esigenze al mondo della formazione e al mondo della formazione in qualche modo chiarire quali sono gli esiti dei percorsi per cui viene fatta appunto la formazione. E è uno strumento fatto in questo modo che può avere moltissimi utilizzi, sicuramente può favorire un incontro di domanda offerta di lavoro, attive più efficaci, politiche attive del lavoro, può favorire delle analisi più puntuali sull'evoluzione del lavoro, sui processi produttivi, l'orientamento, la progettazione formativa, la certificazione delle competenze e così via. Insomma, può essere utilizzato un strumento molto flessibile, eclettico, che può essere utilizzato in molti contesti, in molte policy. Allora, nel sito INAP, www.inap.org, l'Atlante del lavoro e qualificazioni si trova appunto sotto la voce strumenti. Ma può essere uno strumento che viene utilizzato anche da una famiglia, da un giovane che è alla ricerca di una definizione del suo percorso di lavoro? Perché... Ah, di nuovo interrotto la telefonata, abbiamo qualche problema adesso con la regia. Alessandro Marcotulli sta tentando di ripristinare il collegamento telefonico. E niente, o siamo censurati, perché evidentemente parlare di questi temi forse è così un po' complesso per qualcuno, ma giustamente tu dicevi, Mauro, prima il dottor Grillo ci ha enfatizzato, ci ha raccontato come l'attività di INAP si rivolga fondamentalmente a profili istituzionali, quindi al policy maker, al legislatore, al governo, eventualmente proprio per tentare di capire con quali strumenti muoversi per cogliere i bisogni di questo mercato del lavoro sempre più complesso. È chiaro che poi parliamo di uno strumento un po' più dettagliato, l'attività di un Atlante, che cerchiamo di capire se può essere fruito anche da un utente finale, una famiglia, una persona che cerca lavoro. Dottor Mazzarella, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Stamattina fa capricci il suo telefono, o forse il nostro, non sappiamo, può essere anche il nostro. Qui la linea sembra buona, quindi non capisco. Bene, allora stavamo chiedendo con Mauro Meazza se l'Atlante può essere utilizzato anche da una famiglia, da un giovane, per fare che cosa? Anche utile per esempio per costruire un curriculum e candidarsi presso un'azienda? Assolutamente sì, perché appunto considera che può aiutare a descrivere quelle che possono essere le esperienze di lavoro, oltre che il titolo di studio. Oggi è molto importante valorizzare le proprie esperienze di lavoro, e l'Atlante offre un linguaggio utile a far capire alle imprese qual è stata l'esperienza di lavoro, quindi sicuramente per la stesura di un curriculum vitae può essere uno strumento molto utile, può esserlo anche per una famiglia, per capire che cosa avviene nei diversi processi di lavoro, che cosa ci si può attendere dei diversi livelli di qualificazione dei propri figli, Quindi sicuramente sì, anche se il focus principale è quello di metterlo in mano degli operatori del settore. Il Covid, il Covid che ha condizionato così tante cose. Voi avete presentato sul sito, tra l'altro, tra le evidenze, le primissime cose, tutti i lavori che avete avviato, che avete svolto in questi mesi proprio per indagare le correlazioni tra lavori, lavoro, mondo del lavoro e la pandemia. Ma relativamente proprio al suo progetto, al progetto che lei segue, cioè quello dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, la pandemia come ha influito? Che cosa in qualche modo l'Atlante può essere utile in questa fase o rivelare delle utilità alle quali magari non si era pensato? Io penso di sì, noi abbiamo pensato l'Atlante per obiettivi fondamentalmente, oggi il lavoro deve essere pensato per obiettivi, trasferire a casa ciò che facevamo prima sul luogo di lavoro non ci porta molto, molto lontano, diciamo così, non è smart working questo, lo smart working deve essere pienamente realizzato, che è diciamo, la modalità lavorativa più comune dopo l'emergenza sanitaria, per essere pienamente realizzato deve rivedere la modalità con cui noi lavoriamo, dare importanza agli obiettivi, alle performance da conseguire e non dare invece rilevanza al fatto che io sono in ufficio 8 ore, quindi basare tutto sul tempo di lavoro. È molto importante questo, nell'Atlante noi abbiamo tracciato il lavoro in termini di obiettivi, quindi in un certo senso proprio in questo periodo potrebbe ritornare utile a chi intende reingegnerizzare i propri processi per favorire ad esempio una modalità di lavoro come quella dello smart working. Dottor Mazzarella, stavo curiosando sul sito, tra le finalità a cui l'Atlante è destinato ce n'è una anche molto interessante, vuole essere uno strumento di supporto al sistema per l'apprendimento permanente, perché qua è una grande sfida per chi si candida ad entrare oggi nel mondo del lavoro che deve avere anche verso l'azienda, ma questo succede naturalmente, deve succedere anche nella testa dell'imprenditore, un approccio sicuramente diverso rispetto al passato, non più l'idea di ottenere una, come dire, una posizione e mantenerla per tutta la vita, magari anche mantenerla per tutta la vita, ma con una flessibilità mentale sicuramente molto più accentuata del passato. Il lavoro cambia, cambiano i bisogni delle aziende, dei mercati a cui le aziende si rivolgono e quindi tutti dobbiamo essere molto come dire, sensibili al tema dell'apprendere continuamente, formarci continuamente. È uno strumento utile anche per capire come fare a risolvere questo bisogno? Sicuramente questo è un altro elemento molto importante a cui va incontro l'Atlante. Oggi abbiamo una mobilità molto alta sul mercato del lavoro, anche i dati questo ce lo confermano, sia occupazionale che professionale, cioè le persone si spostano da un posto di lavoro all'altro, ma cambiano anche professione, cambiano anche attività lavorativa che svolgono. Quindi abbiamo una dinamica circolare, abbiamo persone che passano da essere inoccupate ad essere occupate, però poi tornano, no, ad essere, per questa mobilità, ad essere in cerca di occupazione. Quindi la dinamica è circolare e l'Atlante può favorire sia le traiettorie di andata, cioè appunto come dicevo prima, favorire l'incontro domanda offerta di lavoro valorizzando le competenze di cui è portatrice la persona e anche accompagnare diciamo così le traiettorie di ritorno, visto che c'è appunto questa circolarità, questa mobilità molto, molto alta. Questo è sicuramente uno dei focus. Oggi l'obiettivo di una policy non può essere quella di ridurre al minimo di svuotare il bacino dell'offerta, perché questo bacino si riempie e si svuota continuamente, simultaneamente. Quindi un obiettivo di policy dovrebbe essere invece quello di governare questa circolarità e l'Atlante può essere uno strumento di governo molto importante. Immagino che verrà quindi costantemente aggiornato. Vista anche sì, l'evoluzione, sì, perché noi i lavori, come dire, alcuni lavori cessano, finiscono e altri invece nascono, lavori che non avevamo neanche immaginato. Sì, questo è un impegno molto, faticoso, devo dire, a cui l'INAP comunque cerca di rispondere. Noi cerchiamo di aggiornare praticamente tutti i giorni, ma abbiamo sposato un modello che è quello, o almeno insomma ci proviamo, che è quello poi statico. No, è quello di Wikipedia, diciamo così, ecco. No? Cioè, facciamo in modo che tanti scrivano questi contenuti e quindi avere una platea di scrittori ampia che ci possa aiutare a quest'opera di aggiornamento continuo, che è molto molto complessa. Andiamo a guardare allora la voce giornalista e vediamo se io e Mauro possiamo metterci lo zampino. Scherzo naturalmente, dottor Mazzarella, grazie. Grazie Riccardo Mazzarella, ricercatore. Prego. Responsabile del gruppo di ricerca Atlante del Lavoro, grazie. Ottimo. Noi torniamo domani con Investire Informati, parleremo di investimenti sostenibili con INAP, ritorniamo mercoledì prossimo. L'ho detto tutto? Ma io credo di sì, per oggi sì, Deborah. Bene, a domani, buona giornata. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, suoruba.it.